lo slogan lo stesso, lascia perdere, non importa, lasciala. Tipo di navigazione che si cambia e si smanetta un attimo dopo, boh, lo so, provi, non l'ho mai provato. Dimmi solo del carattere, si può ingrandire. Voi ridete, ma non sempre si usano, in genere si usano due, chi fa template che li modifica, io li modifico, ne uso uno o due che conosco e vado avanti sempre con quelli. Quindi non uso, a parte questa parte qua non la uso quasi mai. Vai, dimensionami i caratteri, poi c'è, ecco, mettici 7, vabbè, schermo più ampio, e qui automaticamente si può cambiare il tipo di carattere, i colori. Vai, applica, e c'è già un piccolo, c'è già una piccola modifica. Vediamo, cosa è stato cambiato? Ok, sì, dai, è diventato più grande. Allora, adesso entriamo, adesso questa è la parte grafica, ok, quello è il logo. Adesso entriamo in sul discorso creare sezioni, categorie e contenuti. Allora, Joomla ha un piccolo limite che si può creare solo la sezione all'interno della sezione, però se ne possono creare miliardi di sezioni. All'interno della sezione si può creare solamente il livello di una categoria o media di categorie, e dentro le categorie si mettono i contenuti. L'albero soltanto ha tre livelli, non va più sotto, cioè solamente tre livelli. Per me non è un problema perché è già abbastanza complicato, si può usare abbastanza bene anche così, non è indispensabile avere di più, però nella prossima versione 1.6 ho intenzione di mettere dei livelli diversi. Allora, pensate a una matriosca, non è difficile, però tanti non, è un osso duro per alcune persone, ho cercato di insegnarlo, cioè, poi alla fine ci hanno capito, però un signore alla fine è arrivato a dire: allora, è una matriosca, dentro la matriosca c'è un'altra categoria e dentro la categoria ci sono tanti altri, gli articoli sono dentro le categorie, cioè quindi sezione è una cartella dove non si possono mettere dentro tante categorie e dentro ogni categoria si possono mettere miriade di articoli. Quindi gli articoli vanno messi dentro la categoria, quindi la prima cosa che si deve fare è si deve creare la sezione. Possiamo far vedere una, che, allora la sezione, ah, già fatto? Da dove si parte? No, fammi il pannello di controllo, che sono davanti, eh. Allora, gestione sezioni. Oppure da qua, contenuti. Vabbè, sì, esatto, da lì o dal disegnino, dal pannello di controllo, si fa nuova sezione, si scrive il titolo della sezione, possibilmente non più di tre parole. Dai, scrivi, Linux. L'alias è... dove viene, come viene visualizzata il nome della sezione nella barra di URL. Quindi si mette open-source, nel questo caso, avendo soltanto due parole, open source nel titolo, automaticamente l'alias viene messo in automatico da Joomla, open-source. Si può pubblicare questa sezione, come non pubblicare? Vuol dire non pubblicato, vuol dire che la sezione esiste, però non viene vista dagli utenti. Poi si può dare il livello di accesso. Public o public significa tutti, registrati significa quelli che sono registrati attraverso username e password nel login che c'è all'interno del sito, e special sono gli amministratori, i pubblicatori e tutti gli altri. Poi si può selezionare un'immagine che si può dare a questa sezione, quindi se per caso si collega il menu a una sezione dove all'interno ci sono le categorie, c'è un'immagine, lascia stare, non importa, e qui si può scrivere qualcosina. Questo è un editor che dopo vediamo un po' più specificatamente. Salva. Adesso andiamo a creare una categoria che andrà, gestione categorie, che sarà quella che noi in questo caso facciamo, si crea lo stesso nuovo titolo, sempre due o tre parole massimo, che saranno quelle che danno il nome del titolo della categoria, e l'alias è quello che verrà visualizzato nell'URL quando se c'è il collegamento alla categoria. Vedete qua? Cosa avete fatto? Licenza Joomla. È l'URL di una delle sezioni o delle categorie. Ok. qui si può scrivere come non scrivere, se si vuole scrivere si scrive, se non si vuole scrivere si lascia stare, cioè quanta della descrizione. Lo stesso la categoria si dà la sezione. Scusami, questa la mettiamo sotto la sezione che abbiamo appena creato, open source. Ok? Si dà la descrizione, si seleziona immagine, si mettono testi, eccetera, eccetera, ma non vai e salva. Adesso andiamo a creare l'articolo, perché queste dicono e non dicono, se non c'è niente dentro non servono. Gestione articoli, nuovo. Allora, è sempre comunque importante sia il titolo che l'alias dare un nome che, con cui poi vorrete che questo articolo venga trovato. Ok. Qui c'è l'URL, cioè qui c'è l'URL, qui c'è l'editor. L'unica cosa che possiamo far vedere in velocità adesso, sì, allora, no, lo metti in prima pagina, non importa. È un editor normale Word, una caratteristica diversa è come inserire le immagini, perché tutti quanti vogliono inserire le immagini, quindi scrivici una parolina, la scegli da là, che da giù non me lo smettega. Ci sono vari modi di farlo. Queste le abbiamo già trovate, ci sono già di nella default, cartella immagini default. Volendo si può, ecco. Dalla cartella vai, torna. Chiudi. Da qui? Chiudi. Da lì, sfoglia. Sfoglia, se vogliamo mettere un'immagine che è all'interno di quella cartella, lo andiamo a trovare da qualsiasi parte dove ci sia delle immagini, mettiamocene una qualsiasi, ok, apri, inizio il caricamento, mi va a caricare, ecco, allora è fatale, non si sa per cosa, comunque, ok. Ho caricato uno che ce l'ha già qui. Ma non ne ho quelle immagini. Una qualsiasi, non te ne... Vabbè, ok, lì si carica l'immagine, va a finire quella cartella, da lì si richiama, adesso non importa, basta, se non te ne più. Allora, inseriscila, ok? Inserisci, ok, a posto. E si formatta il testo come qualsiasi Word, ok? Adesso andiamo a far vedere i parametri dell'articolo, che poi sono parametri che si inseriscono anche... Franci, abbiamo pochissimi minuti. Facciamo vedere i parametri dell'articolo. Ok, qui ci riesco a mettere sia che l'amministratore o qualche altro utente, l'alias non importa, il livello di accesso public che ho registrato, la data di creazione e la data di inizio pubblicazione e la data di termine pubblicazione, perché ci sono certi articoli che vogliamo che siano visti tal giorno e che non si vedono quando sono finiti, non si vedono più, scusatemi, e quindi si mette il termine della data pubblicazione. I parametri avanzati, vammi? Allora, all'inizio, non ve l'ho detto, c'è comunque in un altro punto, c'è comunque un altro punto, abbiamo un po' di fretta perché deve passare la Giuliana a parlare. Sono breve. Ci sono questi parametri che qui c'è scritto usa globali, sono quelli che si impostano in un altro punto, che dopo eventualmente facciamo vedere. Si mostra titolo, qui adesso li cambiamo, mostra titoli ipertestuali. Sto dando caso. Ah, vabbè, sì, nasconde il nome sezione, se per caso, vabbè, si deve cambiare. Comunque sono è abbastanza intuitivo e facilissimo. Non è che... A posto. Vabbè. Resto, Ok. No, non uscire. Basta. Poi informazioni e metadata, che sono quelle più importanti di tutti perché il nostro sito sia visto. Allora, questo all'interno è la descrizione della pagina che noi abbiamo appena creato. Le pagine non è indispensabile che abbiano tantissimo testo. Le pagine possono avere anche non più di 100, possono avere minimo 160 parole, possono essere già ottimizzate. In queste 160 parole ci devono essere quelle 3, 4 o 5 parole chiave che la caratterizzano per poter essere trovata con la ricerca di Google. Queste parole chiave nella pagina possono essere scritte, anzi devono essere scritte un po' in grassetto o sottolineate o in corsivo. Gli si deve mettere l'H1, H2, H3, adesso dove lo troviamo? Ecco l'H1, aspetta Franci che bisogna divertirsi questo, per dargli la caratteristica titolo, prova a darglielo, che è questo che si è già ingrandito. Loro sì, adesso noi vediamo che è bello, è scritto in rosso, un po' più grassetto, ma all'interno del CS, dell'HTML, della pagina HTML, quello viene visualizzato come titolo tra H1. H1 significa che Google lo vede come parola molto importante. Se dopo magari il CSS lo volete cambiare, che non vi piace in rosso, perché quella grandezza là, lo cambiate attraverso CSS nel pannello di controllo in back-end o usando vari editor per, adesso uno me ne viene in mente, si chiama Notepad++ che è open source. H1, H2, H3, allora non servono tante parole, basta, cioè all'interno del testo basta le parole chiave che siano ben indicizzate. Le stesse parole chiave se ne mettono qua, non servono più di 2 o 3. Mentre l'articolo, la descrizione possono essere anche tipo un SMS, un 160 lettere con una descrizione abbastanza, con parole, deve essere però una descrizione con una frase molto scorrevole, perché Google quando vede delle frasi che non sono frasi fatte, non è che le depenna, però non le piace mica tanto e quindi non dà la massima indicizzazione. La stessa cosa appunto deve essere il titolo che corrisponde con le parole all'interno e l'alias che corrisponde con l'interno. Poi per indicizzare ci sono vari sistemi, ci sono le sitemap che si mandano su a Google con strumenti di web, per i webmaster fatti in XML, che lì ci vuole saperlo fare manualmente, o ci sono dei siti apposta che fanno le sitemap online. Io posso, ho fatto molto veloce, vediamo un po' un attimo se si può. Collegamenti nel menu. Ok. Posso fare i collegamenti nel menu? Faccio tempo a fare un po' di collegamenti nel menu? Perché sì, sennò. Ok, allora noi abbiamo creato la sezione, la categoria e la pagina. Oddio, mi sono persa i moduli. Andiamo a vedere la pagina in anteprima. Anteprima, ok. Allora, questo, ok, quello di sinistra è il modulo del menu principale, poi c'è il modulo risorse, il modulo concetti chiavi. Cosa sono i moduli? Sono i menu che creano i moduli, o i moduli che vanno, sì, sono i blocchi, sono i menu che sono creati con i moduli, che si mettono nei blocchi, modulo di sinistra o modulo di destra. Andiamo a, adesso, creare un menu completamente, sarebbe un po' lunghino.